Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, anche a Flavio Suardi. Ciao Flavio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Risultati di ieri sera in Eurolega: Roma che vince la sua prima in Europa battendo la Juventud Badalona 85-71, Avellino che forse non ci crede fino in fondo, poi va sotto di 27 nel terzo quarto, poi rimonta, perde 90-83 sul campo del Maccabi Tel Aviv. Siena invece comincia a innestare le marce alte vincendo a Kaunas 93-67. Risultati nella notte NBA con Cleveland che batte Charlotte 96-79. Quindi due vittorie in trasferta, quella di Houston a Dallas e quella di New Orleans a Phoenix, ma soprattutto aspettando la prossima notte perché sarà quella del derby Bargnani contro Belinelli. Già vi dico che Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao Carlo, ciao Flavio, ciao amici sportivi. Partiamo proprio dagli Stati Uniti, poi avremo un viaggio nelle crisi, quella di Milano e soprattutto quella per alcuni aspetti anche comica della Fortitudo Bologna, che oggi comunque ha trovato uno sponsor americano, poi vi diciamo chi è. Ah, va? Sì, General Motors Financials Acceptance Corporation, cioè il ramo finanziario della General Motors. Mamma mia, complimenti a loro. GMAC, oppure GMAC, vedremo come si chiamerà. GMAC, molto ben detto. GMAC, ok. Nome un po' difficile da... Comunque è un nome nuovo, importante per la nostra pallacanestro. Il comunicato stampa è di qualche minuto fa ed è ufficiale, e così è una risposta a Sabatini che secondo Savic va a mettere in giro voci non rispondenti a realtà, ma di questo parliamo dopo, coach. Io vorrei parlare con te di, invece, del derby italiano, Bargnani contro Belinelli, il mago contro Beli. La prima uscita non granché, no. Bargnani virgola, Belinelli non è entrato, poi parliamo anche di Gallinari che nella notte torna in campo. In tre hanno fatto zero punti, sì. Però ci sono, cioè, Belinelli non gioca, non può segnare. Danilo Gallinari ha già giocato 2 minuti e 30 secondi, non può, cioè, però Bargnani ha avuto quasi 20 minuti in campo, non ha segnato, però devo dire che la squadra con lui in campo ha avuto un parziale di più 10, quindi piccoli segni positivi. Io cerco sempre il lato positivo, se mi è possibile, non è sempre possibile in questi casi qua, ma insomma sono leggermente incoraggiato. Coach, ti aspettavi che Belinelli non avrebbe giocato? No. Io sinceramente no. No. Io sono, cioè, questo Don Nelson, che poi io l'ho sempre difeso dal mio stato di Illinois, tu sai come sono, però questo da segni proprio, di squilibrio. Non so come dire, cioè, vorrei essere gentile, ma come si può quando uno, cioè, Belinelli durante il pre-campionato qualche volta è partito in quintetto, qualche volta è stato primo realizzatore della squadra, non li fai giocare? Cioè, certo. Vorrei trovare una logica per questo qui. L'unica logica è che non gli sta arrivando tutto il sangue al cervello del Mr. Donnells. No, poi tra l'altro per caso mi è capitato di leggere i minutaggi e i punteggi di Belinelli nelle ultime tre partite di pre-season, no? Quindi eravamo già a ottobre inoltrato, gioca 43 minuti, non mi ricordo con chi, e fa 22 punti. Quella dopo ne gioca 20 e quella dopo ne gioca 14 e poi comincia la stagione e lui sta seduto. Cioè, esatto, se lui mi riesce a spiegare la logica di queste cose, va bene, c'è una logica. Ma io ti dico una cosa, io l'ho conosciuto qualche volta, siamo tutti e due della stessa età, lui 4 anni meno di me, ok, dello stato di Illinois, eccetera, così. Hey Dan Peterson da Evanston, sai, gli dice sempre il nome per far ricordare, complimenti per questo qui, eccetera, eccetera. E lui, ciao, come stai? Come va Marco Belinelli? Cioè, lui sa che io l'ho nato in Italia, ok? È diventato freddissimo. Marco Belinelli, not bad. Cioè, mette un po' di cuore in maniera, o fa schifo, ok? Però come non esistesse, come fosse, anche era finita la conversazione, ok? Sì, però sì. Cioè, non mi quadra, qualcosa c'è. Io non ho una grande fiducia in una persona che agisce e gestisce così. Più tardi sentiremo, avremo anche un'intervista a Marco Belinelli che ha realizzato Dario Ricci nei giorni scorsi. Su Gallinari, coach, oggi leggevo l'articolo sull'esordio di Danilo con D'Antoni, che ha detto, gli ho chiesto prima della partita se era disponibile e lui ha risposto, coach, se vuoi vincere la partita mi devi far giocare. Grande Danilo. Ma l'ha vinto la partita e Danilo ha giocato ben poco, Marbury 0 e anche Curry 0 punti, e quindi Mike non ha messo in misura, bisogna dirlo. No, comunque Danilo, insomma, aria del Garden subito, mi sono divertito un sacco, posto favoloso, non vedo l'ora di tornarci, stasera gioca a Philadelphia, però due allenamenti in campo, 4 minuti, ha preso anche un paio di tiri sbagliandoli, però è nella squadra, l'impressione sì. È che sia nella squadra, no, e nei pensieri di no, Antonio. Guarda, Carlo, io ho parlato via email, ok, con Danny Walsh, che io lo conosco lui da un secolo, ok, e loro, tutti sono, ma non... diciamo, oh yeah, abbiamo... non solamente entusiasti, stanno contando su Danilo, ok? Cioè, noi abbiamo bisogno di lui, non oh, ci sarebbe bello, no, di più. Mm-hmm. Coach, andiamo in Eurolega, visto che tanto avremo anche tempo poi di continuare ad affrontare il discorso che riguarda l'NBA, i nostri tre italiani nel campionato americano. Yeah. Io poi mi riservo una domanda però su Rose, su Chicago. Facciamo la prima, così chiudiamo poi il capitolo. Allora facciamo la domanda su Derrick Rose, perché leggevo che Chicago torna ad avere i brividi, per un giocatore. Esatto, noi... di Sport Italia, noi abbiamo fatto la partita, il suo esordio, sì. Hai capito? Cioè, e lui è un ragazzo che non farà tanti punti, farà 10, 12, 11 punti, una cosa così, 7, 8, 9 assi, ma gioca per vincere. C'è stata una partita quando lui era al liceo che lui ha segnato 0 punti, ok? E la squadra ha vinto, poi nel torneo una cosa importante, come mai 0 punti? Non me ne frega niente dei punti, io voglio vincere, se i miei compagni sono ben piazzati, quindi un ragazzo che il contrario del 99,99% dei ragazzi di oggi, cioè pensa solamente alla squadra, solamente a vincere, e poi ha giocato bene, poi è 1,90 m, ok? È andato su per un paio di rimbalzi, ragazzi, cioè proprio grandi mezzi atletici, grande scatto, penetrazione, infatti loro hanno dato la squadra in mano a lui. Ehi Derek, penetrare, scaricare, non hanno schemi quasi. C'è Silvia che ci invita a far partecipare gli ascoltatori, naturalmente. Porte aperte da noi, 800-24-0024, numero verde, messaggi 349-238-6666, Flavia Eurolega. Due vinte, due perse il bilancio degli italiani in Eurolega questa settimana, due vinte che potevano, se vogliamo, essere preventivabili Roma e Siena, altrettanto preventivabili le sconfitte di Milano e d'Avellino, forse Milano che è in pessime condizioni anche di rosa, perché ricordiamo che Bulleri è stato operato, Vitali è fuori, So è fuori, squadra Milano che continua a non convincere anche per come è stata costruita, non so se sei d'accordo, coach. Io sono stato lì a vedere la partita, io vado raramente a vedere perché generalmente ho le partite che devo fare io a Sport Italia, però sono andato e ovviamente è una squadra che non può avere nessuna assenza, hai capito? Cioè fuori tre giocatori che sono importanti, due del quintetto base, Bulleri quasi, ok? Loro non hanno veramente la squadra per assorbire un impatto così. Poi è una squadra che non ha veramente dei grandi giocatori. Io ho detto all'inizio dell'anno, ricordate le nostre prime puntate, Milano sentirà terribilmente la mancanza di Danilo Gallinari, il giocatore fuori classe, extra classe che risolve tutto. Loro non hanno questo giocatore, hanno giocatore, e poi la cosa che è preoccupante è che li vede giocare e si dice, ma qual è il playmaker, qual è il pivot, c'è Joby Thomas il playmaker, okay. Le chiedono di fare playmaker anche se non lo è Vitale, ma non c'è Vitale, quindi Joby, certo. Thomas poverino, non c'è Sao, quindi Mason Rocca deve giocare pivot, non è, cioè Mason Rocca può essere un cambio in una squadra di Eurolega, stanno chiedendo per forza, non è colpa di nessuno, troppo di quello che hanno in campo, e l'impressione è quello che è, e poi fanno fatica a segnare 70 punti, quelli loro sono in un momento molto delicato adesso, poi Montegranaros, domenica in televisione a mezzogiorno, è una partita, cioè giocherà a Milano, però è una partita molto delicata. Certo, coach, poi nessuno lo sa meglio di te, no? Milano ama le stelle, mi viene in mente Bob McAdoo. Ama chi lavora duro, mi viene in mente Gallo Papà, mi vengono in mente altri tuoi giocatori. Ama le stelle, ama chi lavora duro. È allergica alla normalità, anche se di alto livello. Questa non è ancora una squadra che Milano può amare, mi sembra. No, finora no, però bisogna essere giusto nelle cose, ragazzi. Cioè, i tempi miei sono tempi passati. Avere dall'NBA i giocatori, ci sono più squadre dell'NBA, non hanno più 11 giocatori in rosa, ne hanno 15. Prima era 11, poi 12, ora 15. Cioè, poi c'era una volta 22 squadre, 23. ti ricordi quando io sì. in un momento di grande scemenza ho detto noi siamo la 24esima certo, squadra no. dell'NBA eccetera, quindi ora ci sono 30, ok, quindi ci sono meno giocatori disponibili, poi ci sono c'è la concorrenza, la Spagna ha dei soldi, Russia tanti soldi, la Grecia tanti soldi, Turchia tanti soldi, quindi c'è una grande concorrenza, quindi io non voglio dire ah ai miei tempi, i miei tempi erano i miei tempi, sono passati, la realtà oggi è questa, però la realtà, anche quello che hai detto voi, che Milano ha bisogno di una squadra vincente, delle stelle, cioè, avevamo grande fortuna, avevamo Dino Meneghin, avevamo Mike D'Antoni, avevamo Bob McAdoo, poi hai detto, citato anche la gente operaia tipo Gallo, tipo Franco Boselli, tipo Pittis, tipo Barnia, tipo Premier, tipo Barlow, cioè, e la gente si è identificata con questo. Difficile riprodurre questo, se non impossibile oggi, sarei il primo a dirlo, non voglio fare il presuntuoso. L'Ottomatica che vince, anche se Repesa non è contento di quello che ha visto dalla sua squadra, ha avuto tanto dalla panchina e da quei giocatori che erano stati un po' discussi a Berlino, primo fra tutti Becirovic, che invece ieri sera ha giocato un'ottima gara, così come Siena che praticamente vince a Kaunas solo nel terzo quarto. Siena finalmente ha ingranato, cioè hanno sofferto, secondo me la partita che hanno vinto per un pelo supplementare allo scadere di tempo a Teramo gli ha servito, cioè è stato un grande campanellino di allarme e la squadra finalmente ha messo tutto l'ingranaggio insieme e loro sono di nuovo come l'anno scorso, l'anno precedente, una schiaccia a sassi. Roma alti e bassi, però Roma con Repesce e con Bodi Roga lì a gestire le cose, che sanno cosa ci vuole per fare una squadra di Eurolega, perché tutti e due hanno allenato in Eurolega, Repesce ha fatto una finale, Bodi Roga figurati ha fatto MVP in 3 o 4 di queste cose qui, Repesce ha allenato l'Olimpiade, Bodi Roga li ha giocate, quindi gente che sa cosa ci vuole. La squadra, anche Roma, non è secondo me del tutto venuta insieme, i pezzi ci sono, stanno manca venendo insieme, ma non ci sono ancora. Manca la chimica, manca la chimica. Hanno lavorato bene, una buona squadra, ma la chimica, guarda Siena l'avessi vista a Teramo, Siena ragazzi che dramma, non c'è la chimica, ping, improvvisamente fanno trasferta e spazzano via un avversario, anche giusto. Quindi... Siena la chimica ce l'ha, quel giorno lì l'aveva lasciata a casa, probabilmente, yeah. Però Roma la deve ancora trovare, ma ha una profondità spaventosa. È una squadra molto pericolosa che darà anche fastidio in Eurolega e anche a Siena. Cosa, per chiudere Avellino, ieri l'ho vista Avellino, ho visto la partita in TV, meno 6 all'intervallo, Maccabi pessima impressione mi ha fatto, al di là di Arroyo che è un giocatore che a me piace molto, poi lì se a Roma manca la chimica, ad Avellino manca l'esperienza a questo livello, perché il terzo quarto da morire, meno 27, poi rimonta e alla fine anche un risultato positivo in chiave differenza canestri. Se io sono loro tolgo il positivo da questo qui, se sono Marcoschi dico ok, cioè, ragazzi avevamo poche convinzioni, adesso che abbiamo preso la convinzione, anche se magari a babbo morto eccetera, quello che vuoi dire eccetera, però abbiamo visto che noi possiamo giocare per lunghi tratti contro una delle grandi tradizioni d'Europa, Maccabi Tel Aviv. Perché non facciamo questo sempre? Perché dobbiamo avere questo minimo di dubbio? Perché cioè, lui può lavorare su questo e secondo me adesso Avellino dà questa lezione, in campionato diventa più una realtà, in Eurolega non so quanto andrà avanti, io ne ho dei dubbi su loro in Milano per andare al top 16, anzi gravissimi dubbi. Grazie coach, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao ragazzi, ok? Ciao amici sportivi a tutti. Grazie coach Peterson. Palla spicchi. Giborghi in redazione, Carmelo Lauricelli in regia naturalmente e un altro ospite subito in onda, ricordo 800240024, vale anche per Silvia che invita a far partecipare gli ascoltatori. Naturalmente come sempre siamo qui e come ogni venerdì parliamo di basket. Walter Fuoco, inviato di Repubblica. Buongiorno Walter. Buongiorno. Tutti pronti sugli scafandri, ci immergiamo nelle crisi che sono quelle di Milano e più tardi anche quella, ripeto, per alcuni aspetti anche un po' comica della Fortitudo Bologna, che però è notizia di oggi, ha trovato uno sponsor importante, GMAC appunto, si diceva prima con coach Peterson. Walter, invece, per quanto riguarda Milano, l'Armani di Giorgio Armani e Piero Bucchi è partita grosso modo come quella di Corbelli e Marcoschi, anche vittoria la prima partita e poi il buio. Ci sono differenze e attenuanti in questo secondo caso più che nel primo, ma ci sono anche risultati. Sì, risultati modesti, però la squadra in questo momento gioca senza regista, il che è abbastanza determinante secondo me nello sviare le partite. contro un Armani senza regista vince l'Efes Pilsen perché è più forte dell'Armani, non è un risultato sorprendente a mio parere. L'Efes è una buona squadra di giocatori esperti, come li mette insieme ormai da tradizione Ataman, insistendo anche su certi cavalli che ricompaiono in tutte le sue squadre. Sì. E quindi io non sono rimasto sorpreso. Poi vi farei una domanda successiva, ossia se l'Armani, con un regista piuttosto stagionato e acciaccato come il vecchio Leone Bulleri, un altro piuttosto giovane, inesperto eppure acciaccato come il giovane Leone Vitali, sia da corsa oppure no, perché molte volte si guardano i roster, le formazioni delle squadre e si vede che nel ruolo 1 tutti puntano ad avere un uomo di grosso livello, è un ruolo determinante. Lì a Milano la scelta è stata invece un'altra, non quella di dotarsi, tanto per capirci, del classico americano play 1,85 che fa anche 20 punti potendo, che insomma Travis Best, tanto per buttargli un nome, sì, lidereggia, diciamo, lidereggia. Così, e no, lì si sono sommati due addendi supponendo che alla fine i conti torneranno. Io qui ho qualche perplessità, però prima di bocciarli facciamoli almeno giocare. Sì. A parte quella del regista, c'è anche un'altra perplessità, cioè che è stato sostituito un giocatore come Jumaine Jones per le note vicende di tesseramento di contratto multiplo firmato con un giocatore che evidentemente non ha le stesse caratteristiche di Jumaine Jones e anzi non riesce a dare quello che in attacco un giocatore come Jumaine Jones avrebbe certamente dato, magari sgravando dei compiti offensivi gli esterni come Thomas e Hawkins, che si trovano spesso a cantare, a portare la croce assieme, insomma. All è il più classico degli americani all, inutili. Ecco, è inutile, esatto. È brutto da dire, però è il più classico degli americani inutili. Ecco, al di là del ruolo, però, che è una discussione sempre interessante, però laddove emergono dei valori, cioè fino adesso non sono emersi neanche i valori. Non vorrei essere liquidatorio, ma si fa strada il sospetto che all sia semplicemente brocco, per dirla come al Bar Sport, e dopodiché disquisire se sia 3, sia 4, 4 e mezzo, 3 e mezzo. Jones l'avevamo visto, e Jones a Napoli aveva giocato bene, con un doppio merito, quello di giocare bene laddove c'era una situazione abbastanza instabile, come hanno certificato poi i verdetti successivi, e quindi era un punto di forza accertato. Questo è stato un salto nel vuoto, e per adesso c'è proprio molto vuoto e poca rete. Sì, Jumaine Jones, gran giocatore, molto particolare di carattere, ha firmato due contratti, e d'altra parte ha fatto bene a Napoli, però ricordo anche il nostro Simone Sandri, che ci racconta la pallacanestro americana da New York, lo ricordo raccontare di un Jumaine Jones capace di mangiarsi degli hamburger da mezzo chilo un minuto prima di andare in campo. Non esattamente il massimo della professionalità giocava, cestistica. Però giocava bene, sì, quindi sono quelli che, se riesci a coinvolgerli e a farli credere in qualcosa, vanno bene, altrimenti sono un po' più complessi. Abbiamo un paio di ascoltatori in linea. Lorenzo, provincia di Como, Walter da Milano. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Volevo chiedere il vostro parere sulla squadra di Cantù dopo le tre prime partite. Io ho visto la prima contro Siena, dove Cantù ha tenuto, era una partita ingiocabile, nel senso che Siena è troppo forte. Cantù ha tenuto bene i primi due quarti, poi ha mollato e è andata sotto di 35. Sì. La seconda a Caserta ha dominato, ha difeso bene, ha dominato, attaccato bene, vinto molto bene. La terza in casa con Avellino, un buco pauroso di 4 minuti a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, 15-0, una partita a basso punteggio, sì. E la partita è finita, si è recuperato, però alla fine non ce la facevamo più. Sì, Walter, che ne pensi? Walter Fuochi, che ne pensi? Che sono tre risultati talmente strani e contrapposti che diventano illeggibili, cioè andare a vincere a Caserta, che era una squadra che aveva spaventato a morte Roma, l'unica che ha spaventato a morte Roma, Di 20 punti è francamente in controtendenza con le altre. Abbiamo parlato domenica con Frates, che è stato nostro ospite, ci ha raccontato che lì hanno sbagliato proprio dallo spogliatoio nell'entrare in campo, perché era ha sbagliato strada col pullman, era il ritorno in Serie A, c'era clima di festa, sbagliato totalmente l'approccio alla partita che non c'è mai stata. Ecco, quindi Cantù, mi dispiace deludere l'ospite, però rinviamo un po', perché aspettiamo almeno che escano due risultati uguali. Sì. Walter da Milano invece, buongiorno. Buongiorno, voi mi avete fatto venire la nostalgia. De che? Io ho sentito Dan Peterson, quell'elenco enorme di nomi, e mi è venuto in mente che ancora oggi un piccolo marchietto di quella squadra sulle loro maglie è mio. Volevo salutare tutti quei bei nomi e basta. Tutto sì. Ecco, Walter, io... Qui con la nostalgia tutti navighiamo in un mare magno. Io vivo a Bologna, si figuri la nostalgia. Qua ci stiamo a capigliare, a promettere delle querele. Una volta vedevamo giocare a pallacanestro. Una volta. Siamo veramente alle lacrime. Senti, no, Walter, invece per chiudere su Milano, ma questa telefonata del tuo omonimo ascoltatore milanese è emblematica. Se ne parlava anche prima col coach Peterson. Insomma, Milano ama le stelle, ama chi lavora duro. Qui non si tratta tanto di singoli giocatori, di Hall, Brocco oppure no, eccetera. Si tratta di un progetto e di gente da riconquistare, anche di un popolo da riconquistare. Perché guardando le partite fino ad ora soltanto in televisione vedo gli spazi bianchi del forum che non sembrano molto diversi da quelli dell'era Corbelli. Ma io vedo a Milano che è stato fatto un progetto è stato fatto, forse non era il progetto più adatto per Milano, ecco, però quello di mettere assieme dei giocatori di voglia di lavorare, per esempio di serietà, queste sono persone serie. Nelle precedenti apparizioni che hanno fatto in Italia, da Mordente a Joby Thomas, da Rocca a Vitali, tutta gente che esce da esperienze positive. Poi forse Rocca è declinante, ma non è uno che risparmia l'impegno, è come tale un giocatore che piacerebbe al pubblico di qualsiasi latitudine. Mi chiedo però se non è un progetto un po' troppo minimalista, però sai, la risposta è facile, trovare assi oggi non è così semplice, e forse è stato anche valutato un rischio di sbilanciamento del progetto. Non è molto seduttivo, diciamo così, poi con i risultati potrà diventarlo, è partito un po' minimalista, e il minimalista quando perdi diventa anche proprio tetro, triste. Grazie Walter, alla prossima. Arrivederci. Grazie davvero a Walter Fuochi. Flavio, dopo le informazioni dai mercati finanziari, che ben si sposano mi pare con un nuovo sponsor della Fortitudo, sì, no? Assolutamente. Perché poi ne parliamo della Fortitudo, non solo il nuovo sponsor ma anche della crisi, e degli aspetti comici della crisi, perché prima facevamo i conti dei giocatori. Uno mandato via perché va in discoteca, quell'altro beccato brillo dai carabinieri, rifiuto la testa alcolemico, Gordon. Che era a casa di Woods, esatto. Mm-hmm. Poi c'è, ma no, non per fare del pettegolezzo, sono Woods, cronaghi sui giornali. Che ha preso la multa anche per questo. Woods che ha preso la multa. Barron infortunato. Adesso hanno preso Fragola, Strawberry al posto di Forte, che è stato tagliato, che e c'è un messaggio che dice: Forte è stato tagliato, non è un cambio di direzione incredibile rispetto alle costose scelte estive, ne parleremo. Ma la mia domanda è: ma non lo conoscevano già dall'anno scorso? Palla spicchi. Eccoci tornati. Dunque, la crisi di Milano l'abbiamo archiviata con Walter Fuochi, quantomeno l'abbiamo discusso con Walter Fuochi. Adesso, prima di sentire l'intervista a Belinelli, che ripeto e ricordo, nella notte giocherà il derby contro Bargnani, speriamo che almeno sia un derby che porti dei punti ai nostri da una parte e dall'altra, e dei minuti in campo soprattutto per quanto riguarda Belinelli. Adesso la crisi di Bologna. E allora non possiamo che collegarci con Angelo Costa, che guida le pagine del basket per il resto del Carlino e che sa tutto. Ciao Angelo. Buongiorno a tutti. Allora, visto che sai tutto, dov'è che erano Woods e... No, beh, a parte gli scherzi, insomma, situazione abbastanza paradossale, no? Sì, ma voi avete parlato di crisi, io potrei rispondervi con l'unica risposta ufficiale che ha dato la Fortitudo in settimana: nessun tipo di crisi, solo qualche infortunio. Ora bisogna intendersi anche un po' sul senso delle parole, cioè se infortunio significa che qualche giocatore si è fatto male, è vero, c'è qualche giocatore che è in infermeria. Ma se infortunio significa inciampare nelle regole, eccetera, beh, questi infortuni stanno contrassegnando il primo cammino di questa nuova Fortitudo, perché insomma aveva cominciato Woods a settembre durante il ritiro litigando con un tassista davanti alla stazione. Poi avete citato voi questi episodi. No, perché Angelo, scusa, non è per fare del pettegolezzo, però insomma Fortitudo squadra misteriosa e talentuosa. Tre giornate di campionato l'hanno aperta in due, allora scopri che Forte va in discoteca, non so dove va, con Woods, uno lo cacciano via e l'altro gli danno una multa pazzesca. Poi Gordon, infortunato, va a casa di Woods, esce, lo beccano i carabinieri, ha alzato il gomito, rifiuta il test alcolemico e quindi problemi anche di lì. Baron via, Bagaric rotto, Slocar rotto, insomma più di così cosa possiamo fare? Tu stai citando degli episodi che sono realmente accaduti. Io l'altro giorno ho letto una dichiarazione del general manager Savic che diceva: sembra di vivere in un reality, ma il reality non lo sta mica costruendo chi guarda da fuori, perché purtroppo sono episodi che sono accaduti. Prima sentivo, quando stavi chiudendo una parte della trasmissione, che dicevi Forte probabilmente lo conoscevano anche l'anno scorso. Evidentemente non è stata una conoscenza approfondita, se adesso neanche al primo errore, perché in effetti l'episodio della discoteca sembra essere stato semplicemente la goccia che ha fatto traboccare un vaso, cioè che lui avesse già dato segni di irrequietezza durante la preparazione. Però voglio dire, il risultato è questo. Tra l'altro è un risultato che secondo me condiziona il campionato non solo della Fortitudo ma anche delle altre, perché ovviamente una Fortitudo che gioca a Montegranaro senza tre americani e perde in volata è un risultato che può dar fastidio a quelle squadre che magari pensano che Montegranaro non sia impegnata nella corsa ai playoff ma in qualcosa di meno, ecco. Tanto adesso arrivano un nuovo americano, no Flavio, e lo sponsor GMAC, però. Esatto. Sì, arriva, scusa se interrompo, tu hai detto arriva l'americano Fragola, ma io direi che dopo tutti questi episodi da discoteca arriva un americano che si chiama DJ, quindi... È vero. Lo diciamo anche per i nostri ascoltatori, DJ Strawberry, che tra l'altro è figlio d'arte, perché è figlio di una stella della Major League di Baseball e anche nipote di Miles Simon, che abbiamo visto qualche tempo fa giocare tra l'altro a Reggio Emilia, a Livorno, Varese, insomma giocare in diverse società italiane. Insomma, questo giocatore che verrà, lo ricordiamo, tesserato la prima finestra di mercato utile. Bisognerà vedere se anche lui a questo punto riuscirà a non farsi trascinare dalla deriva che sembra aver preso questa strada. Basteranno questi provvedimenti secondo te? Multe, allontanamenti, oppure si rischia la classica stagione un po' così? Come quella della Virtus l'anno scorso, magari. Ma io me lo auguro. Io mi sono imposto di non fare più previsioni su nulla, proprio appunto perché l'anno scorso abbiamo visto la stagione della Virtus. E quest'anno abbiamo visto che due giorni dopo la cacciata ufficiale, diciamo così, il giorno dopo anzi, la cacciata ufficiale di Forte, è arrivato questo episodio che ha coinvolto Gordon. Quindi io mi auguro che riesca la Fortitudo a trovare anche un equilibrio disciplinare, chiamiamolo così, perché fino adesso non l'ho potuto avere dal punto di vista tecnico proprio per le troppe assenze. Senti, invece Savic e Sabatini che continuano ad azzuffarsi come bimbi delle elementari. A proposito, vi faccio sentire ad Angelo Costa, a tutti gli ascoltatori, un passaggio della conferenza stampa di Sabatini, patron delle Vunere, ieri. Sentiamolo. Siamo alla terza giornata, ovviamente è meglio vincere che perdere, ma di che siamo soddisfatti mi sembra un termine molto importante. Quali sono le ambizioni di questa squadra e di propositi? Sono ambizioni di dare soddisfazione ai nostri tifosi, di cercare di far bene dopo una stagione sciagurata come quella dell'anno scorso. Presidente, a Pesaro per proseguire questa striscia vincente? A Pesaro andiamo giù è una grande sfida storica tra Pesaro e Bologna, andiamo giù dall'amico Vellucci a Pesaro, speriamo di fare un bello spettacolo. Presidente, non le chiedo di ripetere cosa ha detto in conferenza stampa, non ci sarebbe neanche il tempo, ma cosa è successo con Savic? Ma è successo che ieri l'altro, durante l'anno a Milano, sono stato contattato da un giornalista che mi ha chiesto se era vero che Savic si era dimesso. Ho detto mi sembra molto molto strano, e poi il giorno dopo ci ho trovato una serie di dichiarazioni di Savic, direi estremamente sgradevoli, dove ha detto tutte le problematiche di eventuale bancarotta, piuttosto che di giocatori con problemi non solo tecnici ma anche comportamentali, sarebbero da riferire a me. La cosa mi stupisce e mi tutelerò nelle dovute sedi. Un'ultimissima battuta: è legittimo sognare per i tifosi della Virtus quest'anno? Io credo che sia legittimo sognare, ma credo che in questo momento ci sono dei club con dei progetti più importanti, di grandissimo rispetto, e che un conto sognare, un conto stare con i piedi per terra, sono abituato a stare con i piedi per terra. Dunque Sabatini sta coi piedi per terra, qui era ovviamente al microfono del nostro Emilio Buttaro nell'intervista realizzata ieri. Angelo, continuano ad azzuffarsi però come bimbi all'elementare, dicevo prima a proposito di Savic e Sabatini. Ma sì, questo forse è l'aspetto meno gradevole di quello che quest'estate avevamo sognato, ne avevamo anche parlato nella tua trasmissione, del ritorno di un derby tra virgolette stellare, cioè queste continue punzecchiature. Ricordo che la prima mossa, per fare della cronologia, era arrivata da Sabatini durante il precampionato, quando aveva un po' colpito la Fortitudo a proposito di una trattativa sotterranea con su Koponen, che poi era finita la Virtus. E adesso c'è stato questo passaggio qua. Devo dire che io trovo poco gradevole tutto questo aspetto, anche perché insomma, se ci sono delle cose da dirsi, è meglio dirsele, voglio dire, in privato, di questo genere qua, se sono vere. Restare sui giornali con queste polemiche, in questo momento fa peggio alla Fortitudo, anche perché bene o male, come abbiamo elencato fino adesso, ci sono degli episodi che purtroppo parlano contro la squadra. Io ti sottopongo questo messaggio con il quale è difficile non essere d'accordo. Jack scrive: prima l'uomo, poi il giocatore, regola base per qualsiasi squadra di alto livello. Non è questo il vero problema della Fortitudo, questo potrebbe esserlo, ma a me sorprende ancora di più il fatto che alla guida della Fortitudo ci siano due persone come Sciacota e Savic, che un pelo di pallacanestro la conoscono. Ma io ti do una risposta che piacerà molto a Carlo, cioè una risposta ciclistica, cioè prima l'uomo e poi l'atleta è una vecchia regola con la quale Alfredo Martini ha fatto tante nazionali vincenti, con le quali le sta facendo adesso Franco Ballerini. Prima l'uomo, poi l'atleta. Cunego è un corridore che quest'anno magari non è andato in una fase brillante prima del mondiale, è stato convocato al mondiale, ha dato tutto e poi ha vinto in Lombardia. Perché? Perché evidentemente ha delle qualità umane nelle quali Ballerini ha creduto per cementare la squadra. Questo trasportato alla pallacanestro deve essere fondamentale. Poi è chiaro che quando magari un general manager chiede a un allenatore se vuole un certo tipo di giocatore, qui torno al discorso di Forte, cioè l'anno scorso non è che Forte era già in Fortitudo, c'era anche ad allenarlo Sciacota. Se l'allenatore dice che questo giocatore è comunque un giocatore che può stare nel gruppo, beh, poi alla fine qualcosa o è cambiato nel giocatore o è cambiato nei meccanismi del gruppo, perché non credo che Sciacota abbia dato un giudizio sbagliato su questo giocatore. Angelo, ti chiedo ancora questo, grazie per la risposta ciclistica che in effetti mi è piaciuta molto, ma l'ultima domanda che ti faccio è sul tuo amico Berinelli. Beri, che poi sentiremo, abbiamo un'intervista esclusiva realizzata l'altro giorno, e stanotte gioca con Bargnani, insomma non si schioda da quella panchina. Prima Coach Peterson, l'avrei sentito, metteva in dubbio il pieno possesso delle facoltà mentali di Don Nelson, ma al di là di questo, insomma, non penso che Berinelli abbia intenzione di andare avanti a farsi un altro anno intero la seduto. Però se non ho letto male, può essere anche capitato, credo che proprio in settimana, in questi giorni, abbia rinnovato. Esatto, abbiano fatto valere l'opzione per prolungarlo fino al 2011. Questo significa che ci credono. E in più, a me l'anno scorso della stagione di Belinelli è piaciuta una cosa, che quando gli hanno prospettato l'ipotesi di andare in D-League, lui si è ribellato, perché ha detto: io sto qui perché imparo molto di più a viaggiare e ad allenarmi con questi giocatori piuttosto che andare a giocare nella D-League. Questo significa molto sotto l'aspetto della volontà del giocatore, e anche qui torniamo al discorso dell'uomo, cioè se l'uomo ha questo tipo di volontà, prima o poi ci si inzucca, come si suol dire, cioè magari arriverà il momento in cui Don Nelson si dovrà rendere alla prova dei fatti, cioè dando campo a Belinelli questo gli fa una partita tale per cui il pubblico lo impallina, se lo toglie. Ma Angelo, ma in teoria non potrebbe essere praticabile anche un'ipotesi di vedere se ci sono altre franchise NBA in grado di dargli spazio? Adesso al di là del contratto, però ecco, giusto per non buttare via un'altra stagione, esatto, per non buttare via e non battere continuamente la testa contro un allenatore che sembra non volerti vedere. Questo certamente, però bene o male poi è stato Don Nelson che ha anche convinto Belinelli alla scelta di Golden State, per cui anche qui io non credo che, vabbè, si può sempre cambiare idea, per carità, però non credo che se lui resta lì lo sta restando a dispetto dei santi, ecco. Per cui certo lo valuterà, secondo me non subito, perché hanno appena giocato credo poche partite in NBA, ma lo valuterà fra un paio di mesi quando vedrà che proprio non c'è verso. Grazie Angelo, buon lavoro. A voi tutti, buona giornata. Ne hai parecchio da quelle parti laggiù a Bologna, dove ogni giorno una granata, almeno di questi tempi. Palla spicchi. Allora, vi proporrei di sottolineare come fa sempre il nostro amico Jack, e fa bene, lo facciamo anche noi pubblicamente, come 2600 spettatori per una gara di B dilettanti meritino un accenno. Trieste ha tanta fame di basket sotto la guida di Bonicioli, vogliamo la Serie A. Sì, io sono, insomma, io sogno il ritorno di tutte queste piazze storiche. Trieste è la culla della pallacanestro italiana e questa è semplicemente storia. Da lì è nata, e da lì si è sviluppata, e da lì si è propagata. È tornata la Reyer, è tornata Caserta in Serie A, stanno tornando tutte queste piazze che hanno scritto la storia della pallacanestro italiana. Io mi auguro venga anche presto il momento di Trieste, insomma. Vi proporrei di ascoltare insieme appunto l'intervista di Dario Ricci a Marco Belinelli a poche ore dal derby. Ricordo questa notte, Raptors contro Warriors. Sentiamo Belinelli. Stagione molto importante, il mio secondo anno che gioco per i Golden State Warriors. Io sto bene, mi sento importante, mi sento più maturo e diciamo conosco già il modo di giocare dei Warriors, conosco tutti gli allenatori, conosco comunque il metodo di gioco di questa squadra, che è molto molto molto piacevole, insomma, perché si corre, si tira magari alla prima azione, molto spettacolare. Quindi tutto bene, non vedo l'ora di cominciare, e siamo tutti carichi, siamo una squadra giovane rispetto all'anno scorso. E quindi c'è tanta voglia di fare bene, e questo è l'importante. Abbiamo tanta voglia di lavorare, ci alleniamo sempre tutti i giorni e speriamo con calma di fare veramente bene, io soprattutto. Già l'anno scorso c'era molta attesa per il tuo esordio, poi è stata un'annata passata in gran parte tra la panchina e la tribuna. Ecco, qual è stato però l'elemento utile che hai tratto da una stagione in cui comunque hai giocato poco? Si dice che stando fuori si fa comunque esperienza, si impara qualcosa, ecco, cosa no, mi sento, a casa? Guarda, ti posso dire che è molto importante, perché uno prima di tutto mi sento molto più maturo, so veramente adesso cosa vuol dire magari non giocare oppure giocare pochi minuti, e poi comunque anche se ci sono giocatori giovani come me l'anno scorso, Brandon Wright, comunque facevamo praticamente sempre allenamento, e anche se magari non giocavamo tanto, comunque per la squadra era importante, sai, qualche minuto per dare riposo ai giocatori più esperti durante l'allenamento, sai, magari far riposare uno, cioè comunque sì, non è bellissimo dire, però comunque il primo anno è una gavetta che tutti devono fare, l'hanno fatto giocatori che adesso sono fortissimi e che lo erano allora, quindi sai, si può sempre imparare, non si può sempre imparare dalle cose belle ma dagli errori, dalle cose brutte, quindi è stato importante, anche se ovviamente non ho giocato tanto e spero che quest'anno sia diverso e sia più importante, insomma. Senti, il tuo rapporto con coach Don Nelson, che ti ha sempre apprezzato molto, però ha sempre usato bastone e carota con te, no? È un allenatore particolare, è molto esperto, è da tanti anni che è nella Lega, quindi ha molto rispetto dai giocatori e da tutta l'NBA, quindi sai, è una persona molto simpatica che comunque vuole il bene per te, e questo è l'importante. È simpatico, quindi ogni tanto vuol fare delle gag, è piacevole, comunque è bello comunque essere allenato da un allenatore e da giocatore, perché non dimentichiamoci che comunque è stato anche giocatore, quindi che vuol dire molto magari per un giocatore. Tra l'altro, un po' di spazio in più dovrebbe esserti garantito da questa sospensione di Monta Ellis, no? Per la vicenda legata al suo infortunio. Sì, infortunio. Quindi insomma, sì, direi di sì. Resterà davvero fuori fino a dicembre. Dicembre, questo non si sa ancora, queste sono opinioni che devono dire i dottori, i medici, tutto quanto, quindi non lo so. Comunque allo stesso tempo siamo una squadra unita, adesso non pensiamo a queste cose, pensiamo solamente a stare uniti, a giocare bene, a vincere le partite. È un momento anche particolare quello in cui parte la NBA, perché l'America è proiettata verso questa corsa per l'elezione del nuovo presidente. In spogliatoio che si dice? Obama o McCain? Come è divisa la squadra? Non so tanto, però secondo me da quello che sento dire, da quando vivo qua, diciamo Osama, però poi chiaramente io non ne capisco tanto, ma però direi Osama, anche se non saprei cosa può uscire fra poco. Invece la tua vita quotidiana a San Francisco com'è cambiata rispetto al primo anno in cui, diciamo, hai dovuto un po' scoprire tutto? Ecco, raccontaci un po' qualcosa della tua giornata. Va molto bene adesso, vivo a San Francisco, vicino al ponte Bay Bridge, che è praticamente il ponte che collega Oakland a San Francisco, ed è bello perché comunque San Francisco è una città stupenda, conosco i ristoranti, conosco le persone, quindi è molto piacevole, secondo me, la mia opinione mi rimane nel cuore, tuttora mi rimarrà nel cuore perché è una città stupenda, da vivere e tutto. Qua in Italia chiaramente guardiamo a te, al Gallo, al Mago con grande attenzione anche in prospettiva nazionale. Insomma, questa maglia azzurra è un rapporto sempre complicato, ma tu hai anche saputo dar molto a questa squadra fino all'ultimo europeo. Possiamo contare sul tuo ritorno? Io direi di sì, adesso ti dico, non potrei darti la risposta sì e la risposta no, perché adesso mi trovo in una situazione in cui proprio la prossima settimana inizia un campionato molto importante per me. Posso dirti che si vedrà, che mi è dispiaciuto come è stata quest'estate la nazionale italiana, che non si è andata molto bene, ma so che ce la faremo, ci sono giovani forti e quindi tutto si vedrà, insomma. Tornando invece a Golden State, che aria tira senza il barone in squadra, il Baron Davis che è volato ai Clippers? Sì, un po' a me mi dispiace perché comunque avevo molto legato col Barone, era un mio grande amico, lo è tuttora, lo sento spesso per messaggio. È un'assenza importante, ma dobbiamo comunque essere bravi a non far sentire tanto questa mancanza dei tifosi, ma comunque stare bene, giocare forti e dare tutto per tutto. Con gli altri italiani, col Mago e col Gallo, vi sentite spesso? Siete in contatto? Ogni tanto, non tantissimo. Adesso comunque è la seconda di campionato a Toronto, quindi la vedrò presto. Ecco, in vista del derby, un messaggio al Mago? Sicuramente è in bocca al lupo. Hai qualche consiglio da dare a Danilo Gallinari che va alla conquista di New York? Sicuramente si trova a giocare in una grande piazza e l'unica cosa che magari posso dire che ho vissuto è di tenere duro, non mollare mai, di allenarsi duramente fino alla fine e stare tranquillo, insomma. Questo Marco Berinelli al microfono di Dario Ricci, vera la testardaggine, vera San Francisco è una bellissima città, il coach è simpatico, non mi fa giocare, ma pazienza, però Osama no. È leggermente censurabile, Osama proprio no. Obama magari. Facciamo Osama così, no. Siccome ha detto che il suo allenatore era anche un grande giocatore, almeno su questa ragione, perché comunque Don Nelson ha giocato prima nei Lakers dal 1963 al 65, poi nei Boston Celtics dal 1965 al 1976, insomma. Promosso in storia, rimandato in attualità. Esatto. Chiudiamola così, va. Roberto da Bologna, ultimo ascoltatore di oggi. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, Bellinelli che dice Osama è meraviglioso. Meraviglioso. Infatti, no, infatti Gigi Borghi mi ha detto prima, ma lo taglio, no, lascia. Questa finisce su Blob fino al 2012. Io sono di Bologna, sponda Fortitudo, naturalmente. Le polemiche di Sabatini lasciamo stare, sono penose e lasciamo perdere questo. Il mio intervento era sull'allenatore di sponda Fortitudo, appunto. Sacota. Abbiamo avuto un Bonicholli quasi libero quest'estate, venuto via da Avellino per avvicinarsi a casa, che come sappiamo è Trieste, quindi Bologna sarebbe stata nettamente più vicina. Un bellissimo ricordo lasciato a Bologna e noi rimaniamo con Sciacota che non si capisce che cosa stia facendo. Volevo sapere cosa ne pensavate voi. Credo che a Bologna siano in molti a pensarla come me. È una cosa insostenibile, veramente, secondo me. Sì, io mi limito a pensare che Bonicholli, cioè non a pensare, a ricordare che Bonicholli è stato il miglior allenatore della scorsa stagione e che il miglior allenatore di un campionato, per motivi di famiglia assolutamente legittimi e comprensibili, però non può andare a lavorare in B di eccellenza l'anno successivo. Bonicholli a Bologna ha avuto un rapporto tra alti e bassi. Sì, tormentato, c'era stato un esonero di cui lui soffre ancora a parlarne adesso, quindi bisogna vedere se... E poi comunque Sciacota l'anno scorso qualcosa a Bologna ha fatto, insomma. Sì, poi tanto qualcosa anche in carriera ha fatto, quindi che sia un buon allenatore senz'altro. Poi io, se devo scegliere personalmente tra l'uno e l'altro, Matteo Bonicholli tutta la vita. Ma credo che anche Bologna sceglierebbe Bonicholli, ma quanto per il modo di essere più personaggio adatto ad una piazza come Bologna. Sciacota è un allenatore chiuso, introverso, magari che non lascia tanto spazio al gossip, tanto ci pensano i suoi giocatori, insomma. probabilmente anche da questo punto di vista qui. Flavio, chiudiamo, prima accennavi a novità televisive. Sì, una cosa velocissima: la Lega 2 ha conquistato il secondo, la seconda vetrina televisiva. Saranno due gli appuntamenti su Rai Sport Satellite da questa settimana, uno alle 20.45 del sabato, in programma Livorno-Veroli, e poi resta quello consueto della domenica alle 20, questa settimana Rimini-Sassari. Quindi si raddoppia sabato sera e domenica sera nel posticipo, quanto mai opportuno e legittimo. Grazie a Flavio Suardi, grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Carmelo Lauricella in regia. Chiudiamo qui Palla Spicchi, che torna naturalmente venerdì prossimo. Domani invece lo sport dalle 17 alle 18, come ogni sabato. Palla Spicchi.